Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Ibrida e a idrogeno è Urbe 4.0, la City Car dell'Enea in mostra a Ecomondo, la fiera della sostenibilità che si è chiusa proprio oggi a Rimini. Siamo andati a dargli un'occhiata, ecco com'è andata. Mi trovo ad Ecomondo e qui davanti a me c'è un oggetto che assomiglia vagamente a un dumb buggy, se non fosse per le ruote, che sono invece delle normali ruote, diciamo, da automobile. Ha un nome, questo oggetto si chiama Urbe 4.0 ed è un'auto elettrica ibrida, quindi a trazione elettrica, ma che fa uso anche di idrogeno come combustibile. Approfittiamo, insomma, della presenza di questo oggetto ad Ecomondo per descriverlo prima di tutto, ma anche per fare un po' il punto su questa tecnologia, con l'aiuto di Fernando Ortenzi, ricercatore del Laboratorio Sistemi e Tecnologie per la Mobilità e l'Accumulo dell'Enea. Benvenuto. Grazie. Bentornato, anzi, perché è già stato nostro ospite. Allora, intanto partiamo proprio dalla descrizione. Come si presenta questo oggetto? Io un po' l'ho detto, sembra un dumb buggy con le ruote normali, diciamo così, ma soprattutto qual è il mix di tecnologie che implementa? Allora, Urbe è un quadriciclo pesante che ha come caratteristiche quello di essere un veicolo ibrido con appunto un pacco batterie a litio, con dei supercondensatori che sono un'alta sorgente di energia a bordo di questo veicolo e una fuel cell in grado di erogare potenza durante il movimento di questo veicolo e è in grado di ricaricare le batterie anche quando il veicolo è fermo. Il motore elettrico ha una potenza di massima di 15 kW in linea appunto con la normativa dei quadricicli pesanti per cui questo veicolo è stato progettato. Non è un veicolo commerciale, è un prototipo che noi utilizziamo come dimostratore di tecnologie e come muletto per testare nuove soluzioni dal punto di vista della trazione e dell'accumulo. E proprio l'interazione fra tecnologie diverse, ci hai parlato appunto, in questo caso abbiamo un mezzo a trazione elettrica, ma l'energia elettrica può essere fornita, come ci dicevi, dalle batterie, da dei supercondensatori che diciamo accumulano anche questi carica elettrica con un meccanismo diverso che gli consente di essere caricati e scaricati molto velocemente, contengono meno energia delle batterie ma può essere caricata e scaricata molto velocemente, e poi c'è la presenza di questa fuel cell. Ecco, forse l'aspetto più interessante è la strategia con cui tenete insieme questi tre aspetti e soprattutto la strategia con cui utilizzate la fuel cell, che ricordiamo produce energia elettrica con l'idrogeno. Allora, qual è questa strategia? Allora, il veicolo è un ibrido serie che può essere considerato un range extender, ossia il veicolo è esattamente un veicolo elettrico con una generazione a bordo di energia elettrica dalla fuel cell che ha una potenza relativamente bassa. La fuel cell ha una potenza massima di circa 1 kW, 1 kW e 2, che ha a che vedere con la potenza che mediamente verrebbe erogata in una missione di un veicolo in un ambito urbano, insomma nel suo reale utilizzo, nel reale utilizzo di un quadriciclo come questo che... Ecco, spieghiamo bene, quindi 15 kW di potenza del motore, un solo kW o poco più di potenza della fuel cell. Sembra una cosa sbagliata, strampalata, invece no. Infatti il vantaggio dei veicoli ibridi serie è quello di dimensionare la macchina elettrica, il motore elettrico per la potenza che noi realmente utilizziamo su strada, quindi la reale potenza di cui disponiamo per accelerare o per fare le nostre missioni, mentre il motore primo, in questo caso la fuel cell, viene dimensionato per erogare la sua potenza media, quindi mediamente un veicolo urbano, un quadriciclo di questo tipo, che non è un veicolo vero e proprio, è una macchina un po' più piccola, ha bisogno mediamente di 1 kW, 2, 3 kW al massimo per appunto svolgere la propria missione, quindi andare da una posizione ad un'altra. Chiaramente questo valore di potenza è molto piccolo, ma noi dobbiamo anche tener conto che una macchina in media rimane parcheggiata per il 90% e più del suo tempo, quindi anche i periodi di sosta possono essere utilizzati per ricaricare le batterie. Ed è qui proprio l'elemento strategico, no? Quindi una piccola fuel cell che può rimane accesa quando, per dire, la macchina è parcheggiata, che va avanti a caricare le batterie ogni volta che ha la possibilità, quando la macchina è ferma allo stop magari, ma anche quando appunto è parcheggiata. Quindi una piccola fuel cell consente di tenere cariche le batterie di un mezzo che in realtà ha bisogno di 15 volte la potenza della fuel cell in questione. E questo è un po' probabilmente il modo in cui si sta pensando di implementare realmente queste macchine a idrogeno, sbaglio? E certo, tenete conto che una fuel cell ha dei costi che sono maggiori rispetto a quelli delle batterie, quindi io ho tutto l'interesse a avere sistemi di accumulo grandi che vengono integrati da una fuel cell e non il contrario, quindi erogare molta potenza da una fuel cell ed avere un pacco batterie più piccolo. Il fattore economico è predominante in questo tipo di applicazioni e una batteria a litio come quelle di oggi, che anche costano molto, ma costano sicuramente molto meno rispetto ad una fuel cell, e quindi la progettazione giusta per questo tipo di applicazioni è, di norma, è appunto un ibrido serie con un pacco batterie grande ed un range extender con fuel cell a idrogeno. Come si fa il pieno di idrogeno? Allora, in questo mezzo che abbiamo qui facciamo sostanzialmente una ricarica cambiando una bombola, proprio perché noi ci stiamo focalizzando dal punto di vista energetico di questo veicolo. Esistono diversi modi nella realtà per ricaricare idrogeno in un veicolo, appunto tramite una stazione di ricarica che trasferisce gas dalla stazione verso un pacco di bombole a bordo del veicolo. Oppure per veicoli ancora più sofisticati, con sistemi di accumulo più innovativi, tramite appunto idruri metallici e stoccando l'idrogeno in forma solida. Quali sono gli sviluppi tecnologici e quali invece state lavorando in questo momento? Allora, il problema dei veicoli elettrici oggi, e quindi anche di un veicolo come il nostro, rimane la ricarica. Ad oggi noi stiamo studiando sistemi di ricarica rapida più innovativi, con avanzamenti rispetto al presente, quindi ricariche in mezz'ora, in 20 minuti, quindi ricariche molto veloci, ma anche ricariche con batterie più innovative che si ricaricano anche in 12 minuti. Stiamo lavorando anche sulla ricarica contactless, quindi senza contatto, e con appunto dei sistemi di ricarica wireless, ma anche con sistemi di ricarica senza contatto in movimento, quindi la macchina può ricaricarsi mentre cammina, in quanto sotto il pavimento dell'asfalto ci saranno delle spire che trasferiranno energia al veicolo. Questi sono alcuni dei campi di studio che stiamo facendo, focalizzandoci proprio sui veicoli, in particolare anche sui quadricicli. Chiudiamo con una riflessione appunto su questa scelta, sull'utilizzo dell'idrogeno. Volevo capire se la stessa strategia non potrebbe essere implementata anche con altri combustibili, oltre che con l'idrogeno, sempre godendo dei benefici che offrono le fuel cell, cioè la possibilità di convertire con grande efficienza il combustibile in energia elettrica. Esistono fuel cell che non vanno ad idrogeno, ma vengono alimentate da altri combustibili. L'ibrido serie può avere come motore primo più tecnologie di diversi tipi, da un motore a combustione interna di una fuel cell o una turbogas. Quindi questo sistema è a prescindere dal tipo di alimentazione della fuel cell. Certamente la ricerca nel settore delle fuel cell è molto, ancora è molto presente, molto forte, e sono in campo studi con fuel cell di tipo diverso da quelli alimentati da idrogeno, e anche quelle possono essere dei candidati per andare a bordo dei veicoli. Grazie Fernando Ortensi. Prego, grazie a voi. Torniamo in studio solo per salutarci e darci appuntamento a martedì. Lunedì sera, infatti, partita dell'Italia, Smart City non andrà in onda. Ci fermiamo qui. A voi tutti, buona serata.